Se mi siedo mi ritrovo con il culo fatto ad uovo. Se mi siedo mi ritrovo con il culo fatto ad uovo. No, non si può, una donna questo no. No, non si può, una donna questo no. Quante le finestre sono chiuso, le gambe aperte, prendo l'aria dalle prese come una caffettiera. No, non si può, una donna questo no. No, non si può, una donna questo no. Se mi siedo mi ritrovo con il culo a forma d'uovo e mi mangio un serpente se io non ho detto niente. No, non si può, una donna questo no. No, non si può, una donna questo no. Tu non puoi, no, non devi dirlo mai. Puoi, no, non devi dirlo mai. Tu non puoi, no, non devi dirlo mai. Tu non puoi, no, non devi dirlo mai. Tutte le promesse nelle sere fatte a fette, tutti questi maccheroni me li levo dai coglioni. No, non si può, una donna questo no. No, non si può, una donna questo no. Si può, una donna, questo no, questo no.